Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Filippo Lamanna, presidente del Tribunale Fallimentare di Milano. Gli ultimi dati confermano un aumento delle istanze di fallimento. La crisi dunque entra anche nel Tribunale e chi va a colpire soprattutto? C'è un aumento in termini assoluti delle istanze di fallimento nel 2009 rispetto ai due anni immediatamente precedenti. Poi bisogna vedere quanti sono i fallimenti dichiarati, le procedure aperte. In realtà c'è un ulteriore aspetto da considerare, e cioè che al di là dei numeri e delle cifre, se uno va a vedere i dati qualitativi e non meramente quantitativi, si accorge che buona parte dei fallimenti dichiarati, che sono in numero rilevantissimo rispetto agli altri anni, ben 734, riguarda società, imprese piuttosto grandi. E questo è il salto di qualità rispetto alle situazioni degli anni precedenti, in cui venivano colpite prevalentemente, anche se non esclusivamente, imprese medio-piccole. La crisi fa un salto di qualità e raggiunge anche le aziende più grandi. Questa la denuncia di Filippo Lamanna, presidente del Tribunale Fallimentare di Milano. Al primo piano del Palazzo di Giustizia da settimane questo è il corridoio più affollato, la sezione fallimentare. Qui la crisi la si tocca con mano, nelle folle davanti agli uffici e nei numeri. Solo nel mese di gennaio sono arrivate già 155 istanze di fallimento e i nomi confermano il passo ulteriore in avanti. Diage del Ventaglio chiede un concordato preventivo mentre tentano accordi di ristrutturazione marchi importanti come Montefibre, SEA Pagine Utili o SNIA. Nel 2009 sono 1923 le istanze di fallimento presentate, 600 in più rispetto al 2007, 400 al confronto dell'anno precedente. Mentre parliamo col presidente Lamanna, quattro stanze più in là si stanno definendo le sorti del gruppo della moda Burani, di cui giovedì 11 febbraio i giudici hanno decretato il fallimento. Quando a settembre Lamanna è arrivato alla guida dell'ufficio, ha dovuto subito gestire invece il caso risanamento di Zunino. C'è un'impennata delle procedure dichiarate a carico di imprese medio-grandi, e le quali poi hanno variegato il tipo di accesso alle procedure concorsuali, facendo impennare anche le cifre dei concordati preventivi, che sono raddoppiati da 42 a 81, e gli accordi di ristrutturazione, che sono passati da 0 a ben 27, e tra questi c'era quello della società Risanamento, che fa parte dell'omonimo gruppo, che era una società di dimensioni notevolissime. La maggior parte delle grandi società sottoposte a procedura rappresentano una novità, e addirittura nel primo mese del 2010 il trend non si è invertito ma prosegue, anzi si accentua, perché le procedure di ristrutturazione ex articolo 182 bis e i ricorsi per concordati preventivi segnalano l'arrivo di società quotate in borsa anche di notevoli dimensioni. Ecco Presidente, spieghiamo anche che cosa vuol dire, ecco, questi riferimenti che lei ha citato, quelli della richiesta per accordi di ristrutturazione. Si tratta cioè di aziende che sono in un momento di difficoltà ma contano di poter in qualche modo riuscire a superare questo momento di crisi con accordi con i propri creditori, giusto? Sì, si tratta di un nuovo tipo di definizioni delle proprie situazioni debitorie, alternative alla solita procedura liquidativa di carattere fallimentare. In pratica le imprese si rivolgono alle banche e ai propri creditori, offrono una ristrutturazione delle proprie passività in vario modo congegnandole, e quindi chiedendo dilazioni, chiedendo nuova finanza e soprattutto facendo affidamento sul sostegno bancario, riescono a garantire di pagare almeno il 40% dei creditori per l'intero e un 60% secondo le varie tipologie di accordi che riescono a fare. Si tratta di tutta una serie di alternative ai procedimenti fallimentari che il legislatore ha previsto e che piano piano stanno prendendo piede. Ecco Presidente, lei ha fatto riferimento al caso Risanamento, che è stato la prima grande vicenda importante che è scoppiata praticamente quasi in contemporanea Catania con il suo arrivo al tribunale fallimentare. Oggi che il quadro si è definito, se dovesse riguardare indietro a tutti i vari passaggi, com'è stata tutta quanta la vicenda risanamento? Ma diciamo che la vicenda risanamento ha rappresentato un salto di qualità sia sotto il profilo della predisposizione di questi accordi privati di ristrutturazione dei debiti, sia sotto il profilo anche dell'intervento giudiziale. Un salto di qualità perché attraverso l'intervento di controllo anche della Procura della Repubblica, la società è stata in qualche misura, come dire, invitata a garantire il massimo della trasparenza possibile nella predisposizione di questi piani di ristrutturazione. Tanto è vero che poi si è modificato il management della società con professionisti di assoluto rilievo, i quali di per sé hanno garantito anche una discontinuità rispetto alla gestione precedente. Quello che ha colpito è il fatto che si sia per la prima volta affacciata all'utilizzo di una procedura alternativa di questo tipo, quindi anche con tutte le incognite interpretative, una società di dimensioni così ragguardevoli. Il Tribunale ha cercato di interpretare nella maniera più equilibrata la disciplina attuale, equilibrando sia una tendenza di carattere privatistico con le necessità di un adeguato controllo. Quindi mano ai privati, ma sotto la vigilanza, sotto il controllo degli organi giudiziari. L'intento è stato proprio quello di evitare di far prevalere l'una o l'altra ispirazione, quella privatistica o quella dirigistica, di trovare un punto di equilibrio che garantisse sia gli interessi dell'azienda e dei creditori, sia più in generale quelli economici. E così come lei è, diciamo, soddisfatto, se si può usare questa parola, di come si sia sviluppata, di come sia andata la vicenda? Ma direi significativamente soddisfatto, abbastanza soddisfatto, anche perché poi dalle notizie che si leggono sui giornali, in particolare sul vostro, Sole 24 Ore, sembra che tutto proceda come era stato previsto. Quindi in qualche modo secondo voi questa vicenda e la gestione di questo caso potrebbe essere anche un po' un punto di riferimento, un punto, una sorta di modello per altre? Ma io credo che già lo sia, per la verità, credo che già lo sia. Alla luce almeno di tutti i commenti favorevoli che ho avuto modo di leggere, sia sulla gestione della procedura che è stata particolarmente cauta, prudente, tale da garantire che non ci fossero invasioni di campo. Si tratta di società quotate, quindi ci vuole anche una particolare prudenza nella gestione e nella diffusione dei dati. E anche da parte degli interpreti in dottrina, quelli che si sono occupati di commentare il decreto, mi pare che siano tutti quanti concordi nel ritenere che si sia trattato di un approccio nuovo, molto equilibrato alla problematica concorsuale. Attualmente, così come lei già accennava, appunto, i vostri uffici, gli uffici del Tribunale Fallimentare di Milano, stanno gestendo altrettanti delicate vicende, una tra tutte quella del gruppo Burani, ma ce ne sono tante altre che si stanno incardinando. Lei diceva che la crisi ha fatto un salto di qualità, ora colpisce anche gruppi grandi, aziende anche quotate in borsa. Si tratta di uno spostamento oppure piuttosto di una aggiunta? Vista dal vostro osservatorio, quali erano le aziende, le imprese che fino adesso invece denunciavano momenti di sofferenza economica arrivando fino ai vostri uffici? Diciamo che non c'è stata una sostituzione soggettiva, non è che al posto delle aziende che fino a poco tempo fa si affacciavano alla crisi al punto da essere sottoposte a procedure concorsuali, oggi al posto di quelle ci siano le grandi imprese. No, si sono semplicemente aggiunte a quelle anche imprese di dimensione medio, grande o grandissimo. La crisi ha avuto uno sviluppo progressivo. È chiaro che nelle prime fasi della crisi chi soffre di più sono le piccole aziende, le piccole imprese che subiscono subito gli effetti della revoca dei fidi, della diminuzione degli ordini e dei mancati pagamenti. Alla fine, quando le stesse banche incominciano a far mancare i liquidi alle grandi imprese, anche queste ne risentono. Bisogna tener conto del fatto poi che il capitalismo italiano, le grandi imprese italiane, hanno comunque il problema di essere a ristretta base azionaria. azionaria, sono imprese di famiglia, anche quando sono quotate in borsa non garantiscono un facilissimo accesso al capitale proprio, ma dipendono moltissimo dagli affidamenti bancari. Siccome noi sappiamo che la crisi è soprattutto di derivazione finanziaria, teniamo poi conto che Basilea 2 ha ristretto i termini di intervento delle banche nelle situazioni di crisi delle imprese, tutto questo porta a una diminuzione del volume di nuova finanza e determina alla fine il tracollo anche delle grandi imprese. Quindi sono storie di eccessiva, di forte esposizione finanziaria, quelle che ci sono dietro le richieste di fallimento? Sì, non si tratta soltanto di problemi di carattere industriale, ma molto spesso anche di asimmetrie di carattere finanziario nella gestione d'impresa. Ecco, Presidente, e lei come commenta invece l'aumento anch'esso esponenziale che c'è stato dei casi di bancarotta fraudolenta? Lo interpreto come una particolare attenzione della Procura a questo tipo di fenomeni di patologia dell'impresa, in coincidenza direi con una maggiore attenzione in genere anche proprio alle procedure concorsuali. Noi sappiamo che con la nuova disciplina fallimentare è venuto meno quel ruolo dirigistico che prima aveva il Tribunale fallimentare, al quale veniva data una potestà di intervento autonomo nel dichiarare i fallimenti. Era un caso unico nel nostro ordinamento di potere di iniziativa ufficiosa del Tribunale. Caduto questo potere, si è investita la Procura della particolare attenzione a perseguire interessi pubblici, come dire, di polizia economica per il controllo delle situazioni di patologia. Questo ha portato la Procura ad aumentare il ventaglio dei suoi interventi in quest'ambito e quindi a perseguire anche con maggiore attenzione e con maggiore dispendio di energie la patologia di carattere penalistico connessa ai fenomeni fallimentari. Quindi un aumento legato statisticamente anche ad un nuovo ruolo della Procura e anche all'aumento delle istanze di fallimento, o c'è anche in qualche modo un'analisi da fare sulla gestione essa stessa di alcune società? Ma io penso che valgano le prime due indicazioni, mentre non credo che sia mutato in maniera particolare l'atteggiamento dei protagonisti dell'impresa. Credo che invece i fenomeni vengano più facilmente alla luce in una situazione di crisi, diventino più eclatanti e con un intervento più forte della Procura c'è la possibilità di perseguirli in maniera più efficiente ed efficace. Storielle. Storiacce. Quattro anni dura in media una procedura fallimentare, ma negli archivi ingorgati del Tribunale di Milano ci sono casi che aspettano soluzioni anche da 30 anni. Portarli a termine è ora una delle priorità del nuovo presidente della sezione fallimentare, Filippo Lamanna. 56 anni, 26 di carriera, da settembre alla guida della sezione fallimentare Meneghina e subito, come abbiamo visto nella prima parte della rubrica, ha dovuto gestire casi importanti come quello Risanamento o quello Burani. Nel primo mese del 2010 sono già 155 le istanze di fallimento e aumentano anche i casi di bancarotta fraudolenta. Come dicevo, in una situazione d'impresa in cui è ancora forte la componente familiare, la tentazione di utilizzare delle società come se fossero cosa propria è fortissima e all'interno delle situazioni di patologia di carattere penale viene fuori sempre di più questa forma di dominio tirannico, diciamo così, che tende poi a confondere i patrimoni personali con quelli sociali a danno dei creditori e dei terzi. In genere i risparmiatori ne hanno avuto notizia e hanno provato sulla loro pelle queste situazioni di cattiva gestione, proprio motivate da questo modo non etico di spadroneggiare nelle società, con casi di rilevanza internazionale. È inutile che faccia i nomi. In questi momenti di difficoltà le parti più deboli sono i risparmiatori o piuttosto i dipendenti, a volte i dipendenti di questi grandi gruppi. Fanno sentire la loro voce nei vostri uffici oppure no? Beh, la fanno sentire con una presenza direi di fondo, nel senso che certamente questa crisi sta provocando purtroppo, soprattutto su chi ha il lavoro dipendente, le sue nefaste conseguenze. Però la Lombardia, diversamente da altre regioni in cui c'è un numero limitato di imprese e quindi anche lì si sente di più il dissesto che elimina posti di lavoro, la Lombardia almeno per il momento ancora conserva la possibilità di una ricollocazione e quindi un po' con le provvidenze di carattere pubblico che intervengono in situazioni di crisi, un po' con la prospettiva di riuscire a trovare un lavoro sia pure spesso non comparabile come qualità e possibilità di guadagno a quello perso, riesce comunque a rendere meno forte, meno drammatica nel suo complesso la situazione della forza lavoro e quindi si sente meno quella forma di esasperazione che invece in altri contesti regionali oggi si sente moltissimo. Però ci sono anche gruppi di lavoratori che in questi momenti di difficoltà preferiscono quasi avere una situazione di crisi per l'azienda piuttosto che restare lei nel limbo. Lei ha perfettamente ragione, questa è una situazione che dimostra ancora di più la gravità del momento che noi stiamo attraversando, perché quando un lavoratore preferisce il fallimento della sua impresa alla prosecuzione significa che non viene pagato già da vari mesi, che non vede lui stesso alcuna prospettiva per quell'azienda e preferisce, pur di riuscire a portare a casa un po' di quattrini, rivolgersi, come dire, alla previdenza pubblica che già da una trentina d'anni consente di anticipare il TFR, di pagare le ultime tre retribuzioni per una buona parte delle imprese italiane. Quindi direi è un ulteriore segnale, un ulteriore termometro della crisi grave che stiamo attraversando. Prima di approdare in questo corridoio, Filippo Lamanna, due piani più su, alla Corte d'Appello è stato chiamato a pronunciarsi anche sulla difficilissima questione umana, ancor prima che giudiziaria, di Eluana Englaro, la donna in coma vegetativo permanente a cui dopo 17 anni è stata interrotta l'idratazione, come richiesto dal padre. A spalancare questa strada il decreto scritto dalla giudice Lamanna, che ora, un anno dopo la morte della donna, così ripensa alla sua decisione, a quella che definisce una battaglia civile e così commenta anche tutte le scie che il caso ha portato con sé. Penso da una parte che sia stata un'occasione per una crescita civile di tutta l'Italia, perché l'Italia non era abituata a parlare di queste cose così importanti per tutti. C'è una forma di ripulsa a parlare della morte, della malattia e anche di quelle situazioni così drammatiche che la medicina moderna ha determinato, come lo stato vegetativo permanente. Quindi diciamo un'occasione per rendere giustizia a una singola famiglia, a una singola persona che era Eluana Englaro. Ricordo che il padre ha portato avanti questa battaglia tra mille difficoltà per ben 17 anni, cercando di far prevalere il principio del rispetto della dignità della persona. E aver potuto, come dire, garantire questa dignità individuale, questo diritto di libertà anche a chi si trova in quelle situazioni limite, secondo me è stato da una parte un privilegio, anche se ha comportato ovviamente una macerazione di coscienza intima, ma ha rappresentato un salto di civiltà per tutti. Leggendo i sondaggi che sono stati fatti all'epoca sul sentimento del cittadino italiano, si percepiva fortemente questa presa di posizione favorevole a questo immedesimarsi nei problemi del cittadino. Quindi io mi sono sentito a mia volta portato a immedesimarmi nei problemi dell'uomo, della persona, cercando di, come dire, di fare giustizia, cioè facendo il mio mestiere, cercando di tutelare al massimo questi diritti. D'altra parte, devo segnalare che al contempo c'è stato un modo di esprimersi da parte di alcuni settori della pubblica opinione, della politica, poco commendevoli, che hanno invece abbassato il livello del dibattito, facendone una questione di bandiera, una questione ideologica, che trascurava il problema umano e ne faceva semplicemente un modo, l'ennesimo modo per fare battaglie politiche. Lei non ha mai avuto dubbi sulla sua decisione? Beh, io ho avuto tanti dubbi prima di prendere la decisione, come sempre succede in situazioni delicate. In casi di questo tipo, prima di giungere a una chiara visione della decisione da prendere, si passa attraverso un lungo travaglio. Ma una volta presa la decisione, e la si prende quando ormai quel travaglio è finito e si è chiarito il pensiero e la coscienza, come dire, si è purificata, da quel momento in poi non può avere più dubbi, perché ritiene di aver fatto la scelta migliore. Con Storiacce ci ritroviamo sul sito radio24.it. Scrivetemi. Ciao, a sabato.